Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Mi sapete dire dove sono gli italiani normali? Cioè quelli che in famiglia lavorano in due e che, nel migliore dei casi, devono uscire di casa alle 7 del mattino per tornare alle 18. Se non hanno l'aiuto di qualche parente, come possono accompagnare e riprendere i figli con gli orari ingessati della scuola? Lo sapete che per consentire a un bambino di entrare nella scuola 15 minuti prima del suono della campana, anche quando nevica, bisogna supplicare il dirigente scolastico? Lo sapete che il tempo pieno finisce prima delle 16 e dopo 8 ore di ambiente scolastico i ragazzi tornano a casa, dove non troveranno i genitori che tornano non prima delle 18, con i compiti ancora da svolgere? Noi abbiamo in qualche modo risolto il problema supplicando e pagando donne delle pulizie della scuola materna, affidandoci a scuole private gestite da insegnanti sottooccupate. Ma la scuola, quando si porrà da parte della famiglia? Gli insegnanti devono essere pagati, ma non possono avere a cuore solo i loro orari e i loro stipendi. Gianni. Ho 46 anni e il maestro unico, con l'antica scuola nozionistica, mi ha certamente insegnato a usare il cervello per documentarmi di persona, prima di sposare una tesi. Premesso che il famigerato maestro unico riguarda esclusivamente la scuola elementare, sinora regolamentata dalla legge 148 del 1990, ho la netta sensazione che una grande massa di detrattori non abbia letto di persona la legge 133 del 2008, la cosiddetta legge Gelmini, per poi confrontarla con la precedente. Il maestro unico era già possibile in base al piano offerta formativa prescelto dalle singole scuole, nelle quali il tempo pieno era e resta facoltativo. Letteralmente, la legge Gelmini indica che va privilegiata l'attivazione di classi con maestro unico. Non si tratta quindi di un obbligo. Infatti già ora è così in numerose scuole che offrono moduli variamente articolati. In concreto, la legge del 1990 indicava il tempo standard in 27 ore settimanali e in tal caso si aveva già il famigerato maestro unico, mentre le 40 ore erano consentite a richiesta delle famiglie. La Gelmini privilegia le 24 ore settimanali, in questo caso con maestro unico, ma le 40 ore restano consentite a domanda delle famiglie. Non vedo la differenza. La vera riforma credo sia piuttosto nelle parti che riguardano il personale impiegato, dove la legge indica un più produttivo impegno degli insegnanti e ancora merito e sviluppo professionale. Insomma, il mondo si evolve velocemente. Ad ogni professione viene richiesta una preparazione sempre maggiore, mentre la scuola vuole rimanere ferma. Francesco. Con la riforma della scuola, alla primaria, cioè fino alle elementari, il tempo pieno non ci sarà più. E così verrà fortemente intaccata la qualità dell'unica scuola italiana universalmente riconosciuta come una delle migliori al mondo, la scuola primaria e dell'infanzia. Scuola primaria che neanche la sinistra è mai riuscita a rovinare. Andrea, Milano. Io mi sento di sinistra, anche se non sempre voto a sinistra. Ma questo non vuol dire che io devolva alla collettività quello che guadagno, o che non faccia il possibile per guadagnare di più. Adottando lo stesso approccio, non credo che lottare perché l'Italia abbia una buona scuola pubblica, tralasciando per un attimo il fatto che la sinistra ha grandi colpe sullo stato della scuola, debba precludere la possibilità di iscrivere i figli alla scuola privata. Quando si pensa al bene pubblico, si cerca di costruire regole che tutelino tutti e garantiscono pari opportunità. Poi, nell'ambito di quelle regole, ognuno pensa a sé e decide come ritiene meglio. È forse sbagliato. Antonio. Vorrei chiedere a Veltroni se la soluzione dell'impoverimento delle paghe dei lavoratori si traduce nella richiesta, da parte della sinistra manifestante a Roma, in una misera detassazione delle tredicesime. Tanto per far piacere ai commercianti sotto Natale e far indebitare ulteriormente noi, lavoratori e pensionati, tutta questa pompa magna di mobilitazione per questo? Ma della riduzione dell'IRPEF un silenzio abissale. Vergogna. Ogni mese lascio di IRPEF più di 300 euro e di netto mi arrivano circa 1.100 euro. Se siamo ancora fermi a queste propostine, noi di sinistra siamo messi proprio maluccio. Mi è sembrato di assistere alla replica della famosa manifestazione della CGIL sull'articolo 18. Che cosa aveva portato quella manifestazione? Noi lavoratori italiani siamo i peggio pagati, i peggio tutelati, i peggio trattati a livello contrattuale. Dobbiamo continuare così? Il paese reale è un'altra e ben più problematica cosa. Letizia, lavoratrice pensante. In Italia ci sono troppi avvocati, come troppi architetti, come troppi medici e così via. Purtroppo l'accesso alle facoltà in Italia è troppo facile e arrivano fino in fondo anche i non meritevoli. Prima di tutto, alle facoltà bisognerebbe dare la possibilità di iscriversi solo a quelli che alla maturità hanno preso un voto alto. I test di ammissione sono delle mistificazioni. Vedasi i recenti scandali a Bari e quelli ancora non scoperti in tutta Italia. I test non dovrebbero esistere. L'esame di maturità e il rendimento scolastico delle superiori rappresentano il vero test. In secondo luogo, gli universitari, per poter proseguire nel loro piano di studi, dovrebbero mantenere un alto livello di rendimento ed essere sempre in corso, altrimenti debbono venire espulsi e andare a lavorare. Così come è oggi, vanno avanti solo i figli di avvocati, i figli di medici, di architetti e ingegneri, perché ereditano la professione e i clienti del padre. Ed entrano nella professione da un accesso privilegiato, anche se non sono meritevoli e hanno un rendimento negli studi scarso o poco significativo. Così si dà luogo a un livellamento verso il basso delle qualità professionali rispetto al resto del mondo e dell'Europa. Stefano. Come mai le sentenze in Italia giustamente hanno 3 gradi di giudizio, ma ad ogni grado molte sentenze vengono ribaltate? Com'è possibile che un giudizio di primo grado sia ribaltato in secondo grado e poi, se va in Cassazione, è possibile che venga a sua volta ribaltato? Non mi sembra il lavoro di una giustizia degna di un paese democratico. Bisognerebbe sì riformare la giustizia, ma bisognerebbe mettere delle regole indipendenti dal singolo giudizio dei giudici. Forse anche per questo che ci sono tante cause in Italia. Davide. Negli anni 50 e 60 il PIL era una parte infinitesimale di quello odierno. Avevamo la 500 o la 600 comprata a rate, ci indebitavamo per comprare la casa e ci sentivamo dei signori. Oggi si produce e si consuma infinitamente di più, siamo effettivamente più ricchi rispetto agli anni 60 e 70 e ci sentiamo dei poveracci. Non mi dite che le prospettive sono diverse, ci sono anche quelle, ma c'è qualcosa di peggio che mi sfugge. Che cosa? Nino, Monza. Cresce il numero delle persone che, mancando del necessario, non sono più disposte a fare i salti mortali per il voluttuario. In tutto questo non ci sarebbe nulla di male, soprattutto in una società che proclama di ispirarsi ai valori cristiani. E invece si scatena il panico. Se crollano i consumi, diminuisce il profitto di chi si arricchisce sfruttando il lavoro degli altri e i padroni, poverini. Piuttosto che rinunciare ai loro acquisti, si vedono costretti a licenziare un po' di lavoratori. Nel mondo si è affermato un sistema perverso di schiavitù volontaria, in cui la gente, pur di soddisfare il bisogno indotto di comprare una quantità crescente di cose inutili, è disposta a indebitarsi oltre ogni misura. Il risultato è che, invece di affrancarsi dai bisogni materiali e di liberare energie per la crescita culturale, umana e spirituale, le persone vivono forgiando incessantemente le catene della loro stessa schiavitù. Gaspare. Il problema dell'informatizzazione e della mancata comunicazione tra uffici in Italia è il primo problema da risolvere. E sarebbe il caso che i nostri legislatori e amministratori lavorino su questo, piuttosto che sulle questioni politiche che interessano soltanto a loro. Avete mai provato a cambiare provincia di residenza, spostandovi magari di soli 5 chilometri? Per mantenere il proprio medico curante è necessario compilare e consegnare a mano un modulo, ogni anno, a 2 aziende sanitarie diverse. Per non parlare della sventurata ipotesi in cui si è sottoposti a un accertamento fiscale. Sventurata non tanto perché si ha la coscienza sporca, ma perché si apre una processione di visite a uffici vari, comune, agenzia delle entrate, catasto, eccetera. In qualsiasi ambito della pubblica amministrazione, gli uffici non si parlano tra loro e lavorano ancora con penna e calamaio. Dare soluzione a questo problema comporterebbe, solo questo, un progresso in termini di libertà dei cittadini e un risparmio economico incalcolabile. Antonio. Le difficoltà congiunturali costringono quasi tutti a contenere al massimo la spesa voluttuaria, a cui si è aggiunta ora anche quella quotidiana per il cibo. Nei mercati rionali è possibile acquistare, ad esempio, un paio di jeans cinesi con 10 euro, il che fa certamente comodo a chi dispone di pochi soldi perché così risolve il suo problema. Ma vediamo come stanno effettivamente le cose. Se suddividiamo l'esborso in 5 euro al rivenditore italiano e 5 euro al fornitore cinese, da ciò deriva che l'Italia si è impoverita di 5 euro. Per non continuare di questo passo, è necessario che un altro italiano venda qualcosa all'estero e incassi una cifra di pari importo. Data la situazione, un italiano fa più fatica a vendere beni di pregio, in genere di alto prezzo, di quanta ne faccia il cinese per vendere beni di largo consumo, di bassa qualità e valore. Di conseguenza, in questo periodo storico, stiamo inesorabilmente scivolando verso una sempre maggiore povertà, senza sapere quali provvedimenti prendere per correggere tale tendenza. Forse per vedere il bicchiere mezzo pieno, non tutto il male viene per nuocere, diventando poveri ci arricchiremo di una maggiore capacità di apprezzare e di godere quello che abbiamo. Molte pance, come la mia, spariranno con indubbio guadagno per la salute e la vita potrà essere meglio indirizzata verso i beni spirituali, assai più importanti e soddisfacenti di quelli materiali. Fabio. Caro Fabio, lei almeno in parte ha ragione. Quando acquistiamo una merce prodotta all'estero, noi finanziamo le industrie di oltre frontiera. Ma lei giustamente aggiunge, noi dovremmo vendere merce di altrettanto valore all'estero per restare almeno in equilibrio e non impoverirci. Mi permetta, è quello che facciamo ed è questo che ci rende non più poveri, ma più ricchi. L'apertura del commercio internazionale fa sì che le merci si producono laddove migliori il rapporto tra prezzo e qualità. È vero che noi acquistiamo jeans cinesi a 10 euro e questo consente notevoli risparmi alle famiglie italiane, ma vendiamo proprio alla Cina vestiti di alta moda, accessori di abbigliamento, scarpe di alta qualità e con queste vendite cerchiamo di mantenere almeno in equilibrio i nostri conti con l'estero. Ebbene, negli ultimi anni l'export italiano è cresciuto a velocità sostenuta, più velocemente di quello di Germania e Francia. Tenere aperte ed anzi aprire sempre di più le frontiere al commercio internazionale deve essere quindi un obiettivo prioritario per un'Italia che è molto meno povera di quanto crediamo. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.